Quando nel gennaio dell'anno successivo uscì la seconda edizione di Jane Eyre con la dedica a Mr. Thackeray, la gente si scambiò occhiate interrogative e la perplessità aumentò. Ma Currer Bell non sapeva nulla di Mr. William Makepeace Thackeray in quanto individuo, della sua vita, della sua sorte e condizione, più di quel che sapesse di Mr. Michael Angelo Titmarsh. Il nome del primo campeggiava sul frontespizio di Vanity Fair, quello dell'altro no. Currer Bell, secondo quanto dice la dedica, era lieto di cogliere l'opportunità di esprimere la sua alta ammirazione per uno scrittore che considerava il rigeneratore sociale dell'epoca attuale, il vero maestro di quella corporazione di lavoratori che doveva ricondurre sulla retta via lo sconvolto stato delle cose. Il suo spirito brillante, l'attraente umorismo avevano lo stesso rapporto col suo serio genio che la mera vampa lampeggiante che scherza sotto l'orlo della nube estiva ha con la mortale scintilla nascosta nel suo seno. La salute di Anne Bronte era stata più cagionevole del solito durante quell'estate e il suo spirito sensibilissimo era stato profondamente turbato dalla costante ansietà che pesava sulla loro casa. E ora che Jane Eyre prometteva un così consistente successo, Charlotte incominciò a progettare svaghi, a pensare al modo di allentare la tensione che tormentava la loro carissima sorella minore, la piccolina di casa. Ma benché Anne fosse allietata dal successo di Charlotte, le sue condizioni di spirito e le sue forze fisiche non erano tali da indurla a fare molto esercizio, perciò la vita che conduceva era senz'altro troppo sedentaria. Se ne stava continuamente china su un libro o su un lavoro di cucito o alla scrivania. La sorella scrive: «Troviamo difficoltà a indurla a uscire per fare una passeggiata o a dialogare con noi. Aspetto con impazienza la prossima estate, fiduciosa di riuscire a farle fare almeno un breve soggiorno al mare». In quella stessa lettera dice quanto la sua casa, nonostante gli attuali inconvenienti che la rattristano, le stia nel cuore con care e profonde radici. Ma il brano è troppo intessuto di accenni a fatti altrui perché mi sia possibile riportarlo qui. Chiunque scriva romanzi di successo è spesso assalito da una valanga di lettere inviate da lettrici e lettori sconosciuti che contengono commenti a volte che hanno il potere di far battere il cuore come al suono di una tromba e inducono all'umiltà e alla risoluzione di far sì che ogni lavoro futuro ne sia degno. A volte contengono una tale sincera valutazione dei meriti e dei demeriti che sono fonte di una critica onesta e di un aiuto del quale uno scrittore inesperto ha sete. Currer Bell ricevette la sua buona parte di lettere di ogni genere e con il suo caldo cuore, il suo saldo buonsenso e l'alto livello che si prefiggeva di raggiungere col suo lavoro diede a ciascuna il valore che meritava. Alcune sue lettere di risposta sono state messe cortesemente a mia disposizione dai destinatari, fra queste quelle scritte a Mr. J. H. Lewis. E siccome so che Miss Bronte dava un alto valore al suo incoraggiamento e ai suoi consigli, citerò brani delle risposte di lei, seguendo nell'ordine cronologico, perché serviranno a dare un'idea del genere di critica cui dava valore, e anche perché, nel loro susseguirsi, sono una schietta manifestazione del suo carattere, sia quando esprimono irritazione che accordo con chi le scrive, mai accecata dall'adulazione, anzi piena di perspicace modestia nel valutare sia quanto le era riuscito, sia i punti dove era venuta meno. Grata per l'interessamento amichevole, risentita soltanto quando il giudizio sulla questione del sesso dell'autore le sembrava ottusamente e ingiustamente formulato. In quanto al resto, le lettere parlano di per sé a coloro che sanno ascoltare, assai meglio di quanto io possa fare interpretandone il senso con le mie parole tanto più povere e più deboli. Mr. Lewis mi ha cortesemente mandato la seguente spiegazione della lettera, di cui quella di Miss Bronte che segue è la risposta. Quando Jane Eyre uscì nella prima edizione, gli editori cortesemente me ne fecero avere una copia. L'entusiasmo con cui la lessi mi indusse a recarmi da Mr. Parker per proporgli di scriverne la recensione per il Fraser's Magazine. Egli non fu del parere che a un romanzo sconosciuto, i giornali non si erano ancora pronunciati, fosse data tanta importanza, ma aggiunse che poteva essere citato in romanzi inglesi e francesi di recente pubblicazione, sul Fraser's, del dicembre 1847. Nel frattempo Avevo scritto a Miss Bronte per dirle a titolo personale quanto il suo libro mi aveva fatto piacere e, giudicando dalla sua risposta, sembra che le abbia, senza volere, fatto la predica. E ricordiamo che G.H. Lewis era il compagno di George Eliot, Marian Evans. La lettera di Charlotte a G.H. Lewis, 6 novembre 1847. Caro signore, la sua lettera mi è giunta ieri. La prego di credere che apprezzo pienamente l'intenzione con la quale è stata scritta e di cui la ringrazio sinceramente, sia per la sua incoraggiante valutazione che per i suoi consigli. Lei mi mette in guardia contro il melodramma e mi esorta a restare aderente alla realtà. Quando incominciai a scrivere i principi che lei mi ricorda, erano così fortemente impressi in me che decisi di prendere la natura e la verità come mie uniche guide e di procedere seguendo strettamente le loro orme. Frenai l'immaginazione, evitai il romantico, repressi l'eccitazione, evitai anche i colori troppo carichi, mi impegnai a produrre un'opera delicata, grave e veritiera. Quando questo lavoro, un romanzo in un volume, fu finito, lo offrì a un editore. Questi disse che era originale, fedele alla natura, ma che non si sentiva di accettarlo. Un simile lavoro non troverebbe acquirenti, disse. Successivamente tentai presso 6 editori. Tutti mi dissero che mancavano incidenti di spicco e scene eccitanti, che non sarebbe mai stato adatto alle biblioteche circolanti e che, siccome il successo dei romanzi dipende principalmente da queste, non se la sentivano di intraprendere la pubblicazione di un volume che in quel settore non sarebbe piaciuto. Jane Eyre tutta prima incontrò le medesime obiezioni, ma finalmente venne accettato. Le scrivo questo non con l'intenzione di contestare le sue censure, ma per richiamare la sua attenzione sulle radici di certi mali che affliggono la produzione letteraria. Se nell'articolo che prossimamente comparirà sul Fraser lei vorrà spendere alcune parole per illuminare il pubblico che sostiene le biblioteche circolanti, potrebbe, data la sua autorità, fare un'opera buona. Lei inoltre mi consiglia di non andare lontano dall'ambito dell'esperienza, visto che quando entro nella regione dell'immaginazione sono debole, e aggiunge: la vera esperienza è perennemente interessante e attrae tutti. Mi rendo conto che anche questo è vero, ma, caro signore, l'esperienza personale di ciascuno non è forzatamente assai limitata? E se uno scrittore insiste unicamente su di essa, o perlomeno se lo fa principalmente, non corre il pericolo di ripetersi e di diventare egocentrico? Inoltre l'immaginazione è una forte, irrequieta facoltà che chiede di essere ascoltata ed esercitata. Dobbiamo essere totalmente sordi al suo grido e insensibili alle sue imperiose suggestioni. Quando ci presenta quadri smaglianti dovremmo non guardarli e non cercare di riprodurli? E quando essa è eloquente e ci parla con urgenza all'orecchio, dovremmo fare i sordi invece che scrivere sotto sua dettatura? Scorrerò ansiosamente il prossimo numero del Fraser per leggere le sue opinioni su quanto le espongo. Mi creda, caro signore, il suo riconoscente Currer Bell. Ma pur essendo altamente soddisfatta nel vedersi apprezzata come scrittrice, valutava cautamente le persone che la lodavano, poiché gran parte del valore delle lodi dipendeva dalla capacità e dalla sincerità di chi le prodigava. Si rivolse a Mr. Williams, che era interessato nella casa editrice che la pubblicava, per avere informazioni su chi fosse Mr. Lewis. La risposta alla lettera, che le dava un'idea circa la personalità del suo critico, merita di essere citata. Oltre all'accenno su di lui, contiene alcune divertenti allusioni alla perplessità che incominciava a prender corpo a proposito della reale identità dei fratelli Bell e alcuni accenni al comportamento di un editore che aveva accettato il lavoro di sua sorella. Non faccio commenti in proposito perché mi rendo conto che certe verità vengono tacciate a calunnia quando si parla di persone in vista. Al signor Williams, 10 novembre 1847. Caro signore, ho ricevuto il Britannia e il Sun, ma non lo Spectator, del che mi rammarico assai, visto che le critiche, benché spiacevoli, spesso sono salutari. Grazie per le informazioni su Mr. Lewis. Sono lieto di sapere che si tratta di un uomo intelligente e sincero. In questo caso posso aspettare la sua sentenza con coraggio. Anche se mi sarà contraria, non mi lamenterò. La capacità e l'onestà hanno il diritto di condannare là dove pensano che la condanna sia meritata. Tuttavia, in base a quanto lei mi dice, spero di ottenere una condanna condizionata. Il suo resoconto circa le supposizioni fatte a proposito dei fratelli Bell è davvero divertente. Se l'enigma venisse risolto, probabilmente si scoprirebbe che non meritava la fatica fatta per raggiungere lo scopo. In quanto a me, lascerò cadere la cosa. Ci è gradito starcene tranquilli e questo, al massimo, non può danneggiare che noi. Il critico che ha menzionato il nostro libriccino di poesie nel Dublin Magazine suppone che i sedicenti tre personaggi in realtà siano una sola persona, che, grazie a una nozione alquanto esagerata dei propri meriti, li ritiene troppo grandi per essere concentrati in un solo individuo e conseguentemente si è diviso in tre, volendo risparmiare i nervi di un pubblico già troppo sbalordito. Questo pensiero del critico è veramente ingegnoso e assai originale, ma non l'azzecca, siamo veramente tre. Un lavoro in prosa di Ellis e uno di Acton verranno pubblicati tra breve. Sarebbero dovuti uscire da tempo. Le prime bozze erano già in via di stampa ai primi dello scorso agosto, prima che Currer Bell avesse affidato a lei il manoscritto di Jane Eyre. Tuttavia, mister non tratta gli affari nello stile dei signori Smith e Elder. Sembra che uno spirito diverso regga il timone nell'altra casa editrice. I miei congiunti hanno sofferto spossanti rinvii e un costante procrastinare. Io invece godo i vantaggi di essere in rapporto con una direzione efficiente e cortese che agisce con energia e considerazione. Avrei piacere di sapere se Mister agisce solitamente come ha fatto con i miei congiunti o se si è trattato di un caso eccezionale. Lei non sa nulla, oppure può dirmi qualcosa sul suo conto. Mi scusi se le sembra che io vada troppo dritto allo scopo nel chiederle un'informazione. Se le mie domande sono inopportune, lei è naturalmente libero di declinarle. Sono rispettosamente suo, Carrer Bell. A G. H. Lewis, 22 novembre 1847. Caro signore, ho finalmente letto Ranthorpe. Non me lo ero potuto procurare prima di un paio di giorni fa, ma finalmente l'ho avuto e l'ho letto. Un libro veramente nuovo, non una ristampa, non un riflesso, ma bensì un libro nuovo. Non sapevo che oggigiorno si scrivessero libri simili, e assai diverso da qualsiasi altro romanzo dal vasto consenso, colma la mente di nozioni nuove. Le esperienze e le convinzioni si comunicano al lettore e alla lettrice, e per uno scrittore perlomeno hanno un valore e un interesse del tutto insoliti. Ora aspetto la sua critica su Jane Eyre, con sentimenti diversi da quelli che albergavo prima di aver letto Ranthorpe. Lei era un estraneo per me. Non nutrivo per lei alcuna stima particolare. Non attribuivo alla sua approvazione o al suo biasimo alcun peso particolare. Poco sapevo del suo diritto di condannare o approvare. Ora sono edotto su questo punto. Lei sarà severo, la sua ultima lettera me lo ha fatto capire. Benissimo, tenterò di ricavare quanto vi è di buono nella sua severità e terrò presente che, benché ora sia sicuro che lei è un uomo giusto, capace di giudicare, tuttavia, essendo mortale, è passibile di errore e se una qualche parte della sua censura mi amareggerà troppo crudelmente, non l'accetterò adesso, ma la accantonerò per il momento in cui mi sentirò capace di accoglierla senza esserne addolorato. Sono, caro signore, il suo rispettosissimo Carrer Bell. Nel dicembre del 1847 uscirono Cime tempestose e Agnes Grey. La prima di queste storie suscitò l'indignazione di molti lettori per la forza con la quale personaggi malvagi e inconsueti vi sono descritti. Altri invece hanno provato l'attrazione suscitata da un ingegno notevole anche quando si profonde a dar vita a cupi e terribili personaggi. Miss Bronte stessa dice in proposito: là dove si tratta del disegno dei personaggi, il caso è diverso. Devo ammettere che mia sorella aveva una scarsa conoscenza della gente umile in mezzo alla quale viveva, di poco superiore a quella che una monaca può avere degli abitanti del contado che passano davanti alla grata del suo convento. La sua indole non era naturalmente socievole. Le circostanze favorirono e alimentarono la sua tendenza all'isolamento, eccetto che per recarsi in chiesa o per andare a passeggiare sulle colline, raramente varcava la soglia di casa. Benché fosse trattata con benevolenza dagli abitanti del borgo, non cercò mai di stringere relazioni con loro, né, salvo rarissime eccezioni, ne conosceva gli usi, il linguaggio. Sapeva la storia delle loro famiglie, ne ascoltava le vicende con interesse e ne parlava lei stessa con particolari minuziosi, pittoreschi e accurati, ma con loro personalmente. Raramente scambiò una parola. Il risultato fu che la sua memoria si limitò a registrare esclusivamente i tragici e terribili racconti che si imprimono nella mente di chi ascolta narrare gli annali segreti di una comunità rurale. In lei l'immaginazione, che non era solare ma cupa e aveva più potenza che grazia, vi trovò il substrato da cui nacquero Heathcliff, Earnshaw e Catherine. Dopo aver plasmato queste creature, non si rese conto della portata di quel che aveva fatto. Se il lettore, incaricato di leggere il manoscritto, per primo fosse stato scosso da un brivido nell'incontrarvi personaggi così implacabili, anime perse cadute tanto in basso, e avesse detto che il mero scorrere la descrizione di certe scene spaventose gli aveva tolto il sonno di notte e turbato l'equilibrio di giorno, Alice Bell non ne avrebbe capito il perché e si sarebbe limitato a tacciare l'appunto d'affettazione. Se fosse vissuto più a lungo, la sua mente sarebbe spontaneamente cresciuta come un albero vigoroso, più maestosamente alto, più diritto, coi rami più ampiamente espansi. I suoi frutti più maturi avrebbero raggiunto una più dolce maturità, un più solare colorito, ma sulla sua mente solo il tempo e l'esperienza potevano far presa. All'influenza altrui, lei si sottraeva. Giustamente o ingiustamente che sia, le creazioni delle sorelle minori non furono accolte molto favorevolmente al tempo in cui furono pubblicate. Nella prefazione scritta nel 1850 da Miss Bronte per una successiva edizione di Cime Tempestose leggiamo: «I critici non seppero rendere giustizia a questo lavoro. Il talento immaturo ma inequivocabile che Cime Tempestose rivela fu scarsamente riconosciuto. Le implicazioni che conteneva e la sua vera impronta furono fraintese. L'identità dell'autore venne interpretata erroneamente. Fu detto che il romanzo era un precedente più rozzo tentativo della stessa persona che aveva scritto Jane Eyre. Errore ingiusto e penoso. A tutta prima ne ridemmo, ma ora lo lamento dal profondo. Dal momento del successo di Jane Eyre, la vita di Charlotte Bronte si divide in due distinte correnti: quella seguita dallo scrittore Currer Bell e quella vissuta dalla donna. Vi erano doveri distinti che appartenevano all'una o all'altra, non che si opponessero veramente o che fossero impossibili da conciliare, ma a volte era difficile farli convivere. Quando un uomo diventa scrittore, ciò significa per lui un semplice cambiamento di attività, prende una parte di quel tempo che aveva dedicato a un qualunque altro studio o lavoro, toglie alcune ore alla professione medica o legale nella quale si era impegnato o abbandona parte del commercio o degli affari grazie ai quali si era guadagnato la vita, e un altro mercante, un altro medico o un altro legale prende il suo posto e probabilmente si dimostra tanto efficiente quanto lo era stato lui. Ma nessun altro può prendere su di sé i silenziosi doveri di una figlia o di una moglie o di una madre, sostituendosi a colei che Dio ha destinato ad occupare quel posto. Il disbrigo del lavoro di una donna è raramente lasciato al suo arbitrio, né ella può liberarsi dalle responsabilità domestiche che gravano su di lei per tradurre in atto i talenti anche splendidi di cui è dotata. Tuttavia non deve rifiutare l'aggiunta responsabilità che quei talenti le impongono. Non deve nascondere il suo dono sotto un tovagliolo, deve metterlo in luce a profitto degli altri. Deve faticare in spirito di umiltà e fedelmente per compiere ciò che non è impossibile, visto che Dio, se così fosse, non l'avrebbe messa in condizioni di farlo. Scrivendo ciò, metto in parole quello che Charlotte Bronte mise in atto. L'anno 1848 trovò alla canonica una tristissima situazione familiare. Per quanto sia penoso, è necessario rammentare costantemente al lettore e alla lettrice il continuo rovello che in quel tempo angustiava il cuore del padre e delle sorelle. E quei critici superficiali che insistono sul cupo e triste concetto della vita che incombe nei romanzi delle Bronte, beh, dovrebbero tenere presente che una tale visione si era radicata nei loro cuori grazie alla lunga agonia sofferta. Coloro che obiettano alle descrizioni di scene rozze e di caratteri grossolani e le respingono con ripugnanza, dovrebbero ricordare che quelle pagine non erano scaturite spontaneamente dall'immaginazione delle scrittrici, né dalla loro concezione interna, ma dalla crudele realtà nella quale per lunghi mesi, addirittura anni, si erano trovati a vivere, così che avevano scritto obbedendo al dettato della loro coscienza. È possibile che abbiano sbagliato. Possono aver errato nello scrivere, mentre le loro afflizioni erano così grandi da far sì che non fossero in grado di presentare la vita in una luce diversa. Forse sarebbe meglio se si fossero limitate a descrivere persone buone e attraenti, azioni buone e attraenti, ma in questo caso non so in quale tempo avrebbero potuto farlo. Voglio soltanto dire che mai, a quanto credo, donne in possesso di un dono grande come il loro lo estrinsecarono con maggior senso di responsabilità. Quanto a eventuali errori, tanto come scrittrici che come donne, ora esse si trovano dinanzi al giudizio di Dio. 11 gennaio 1848. Ultimamente qui in casa le cose non sono andate molto bene. Bronwell in qualche modo si è aggiustato per ottenere denaro dalla solita fonte e ci ha reso la vita grama. Papà non ne può più, dietro a lui giorno e notte. Per noi non c'è pace. Lui sta sempre male, ha avuto due o tre crisi. Come andrà a finire Dio solo lo sa. Ma chi mai al mondo è senza tribolazioni, senza castigo, senza uno scheletro nell'armadio? Non rimane che agire per il meglio, sopportando con pazienza ciò che Dio ci manda. Immagino che avesse letto la critica di Mr. Lewis nella rubrica Romanzi Nuovi, uscita nel dicembre dell'anno prima, ma non trovo alcun cenno in proposito finché non gli scrive nuovamente il 12 gennaio 1848. Caro Signore, la ringrazio sinceramente per la sua critica generosa. Ed è con i sensi di una duplice soddisfazione che le esprimo la mia gratitudine, poiché sono ormai sicuro che questo tributo non è superfluo né importuno. Lei non è stato severo con Jane Eyre, è stato anzi molto indulgente. Sono lieto che me ne abbiate indicato i difetti in privato. Nel suo commento ne fa cenno con mano tanto leggera che avrei potuto passare oltre senza riflettervi. Ho intenzione di far tesoro del consiglio di andar cauto nell'intraprendere nuovi lavori. La mia riserva di materiale non solo non è ricca, è assai modesta. E quel che è peggio, né la mia esperienza, né la mia cultura, né le mie doti intellettuali sono tali da permettermi di diventare uno scrittore fecondo. Le dico questo perché il suo articolo nel Fraser mi ha lasciato sotto l'imbarazzante impressione che lei sia propenso a pensare dell'autore di Jane Eyre meglio di quanto egli meriti realmente, e preferisco che lei abbia sul mio conto un'opinione corretta piuttosto che lusinghiera, anche se non dovessimo mai incontrarci. Se mai scriverò un altro libro, penso che non indulgerò in quello che lei chiama melodramma. Penso, ma non ne sono sicuro. Penso anche che mi sforzerò di seguire il consiglio di rifinire di più e di essere più controllato, che splende dai miti occhi di Miss Austen. Ma neanche di questo sono sicuro. Gli scrittori scrivono meglio. Perlomeno scrivono più scorrevolmente quando sembra destarsi in loro un impulso che li domina, che vuole agire mettendo fuori gioco ogni suggestione all'infuori della propria, dettando certe parole, insistendo affinché vengano impiegate senza curarsi se siano per loro natura veementi o misurate, modellando personaggi nuovi, dando sviluppi impensati agli incidenti, ripudiando vecchie idee accuratamente elaborate e creandone e adottandone all'improvviso delle nuove. Non è forse così? E dovremmo contrastare questa aspirazione? Anzi, è possibile contrastarla. Sono lieta che un altro suo lavoro debba uscire da qui a poco tempo. Sono curiosissima di vedere se lo avrà scritto mantenendosi fedele alle sue teorie. Non lo ha fatto completamente in Ranthorpe, perlomeno non nell'ultima parte, ma la prima penso sia quasi senza difetto e allora ha una forza, una verità, un significato che dà al libro un altissimo valore. Ma per scrivere così uno deve aver visto e conosciuto moltissimo, mentre io ho visto e conosciuto così poco. Perché le piace così tanto Miss Austen? Questo suo punto di vista mi lascia perplesso, perché dichiara che preferirebbe aver scritto Orgoglio e Pregiudizio o Tom Jones piuttosto che uno qualsiasi dei romanzi di Waverley. Non avevo letto Orgoglio e Pregiudizio prima di aver letto queste sue parole. Mi sono procurato il libro e cosa vi ho trovato? L'accurato ritratto di un viso comune. Un giardino chiuso da alte staccionate e accuratamente coltivato, con bordure impeccabili e fiori delicati, ma nessuno schizzo di una brillante, vivida fisionomia, nessuno scenario di aperta campagna, non aria aperta, non azzurre colline, nessun bel ruscello. Non mi piacerebbe davvero vivere con le sue signore e con i suoi gentiluomini nelle loro eleganti ma appartate dimore. Queste osservazioni probabilmente la irriteranno, ma debbo correrne il rischio. Posso capire l'ammirazione per George Sand, poiché pur ammirando, non senza restrizione, alcuno dei suoi lavori, perfino Consuelo, che è il migliore, o perlomeno il migliore di quelli che ho letto, mi sembra unire una sorprendente stravaganza a una straordinaria eccellenza. Tuttavia ha un'ampia visione intellettuale che, anche se non posso capire a fondo, sono in grado di rispettare pienamente. Essa è sagace, profonda. Mi sostiene solamente accorta e osservatrice. Mi sbaglio o lei si è pronunciato affrettatamente? Se ne avrà il tempo mi farà piacere approfondire questo punto. Se fosse altrimenti o se lei lo trovasse di poca importanza, non si prenda il disturbo di rispondermi. Sono rispettosamente suo, Carrebelle. A. G. H. Lewis, 18 gennaio 1848. Caro signore, benché non avessi l'intenzione di scomodarla nuovamente così presto, debbo scriverle un'altra lettera. Devo concordare e dissentire. Lei corregge il mio rozzo punto di vista circa l'impulso. Benissimo. Accetto la sua definizione di quali dovrebbero essere gli effetti di questo impulso. Riconosco la saggezza delle regole che lo debbono governare. Che strana lezione, leggo. Subito dopo, nella sua lettera. Lei dice che devo piegare il mio giudizio ad accettare che Miss Austen non è una poetessa, che non ha né sentimento. Lei sdegnosamente chiude la parola tra virgolette, né eloquenza, nessuno degli inebrianti slanci della poesia. E poi aggiunge che io debbo imparare a riconoscere in lei uno dei più grandi artisti, dei più grandi pittori dell'umana natura. Una scrittrice dotata di un perfetto intuito nella scelta dei mezzi atti a raggiungere il fine che si propone. Concordo unicamente su quest'ultimo punto. Può esservi una grande artista senza poesia? Quel che chiamo un artista, che mi induce a inchinarmi riconoscendolo grande, non può dunque essere privo di questo dono divino. Ma sono certo che per poesia lei intende qualcosa di diverso da quel che intendo io, come a proposito del sentimento. È la poesia che innalza la virile George Sand e trasforma un tema rozzo in qualcosa di divino. È il sentimento come lo intendo io, un sentimento gelosamente nascosto ma genuino, che toglie il veleno dal formidabile Thackeray e trasforma ciò che potrebbe essere un corrosivo tossico in un elisir purificatore. Se Thackeray non alimentasse nel suo grande cuore un profondo sentimento per il prossimo, si delizierebbe nello sterminarlo. Così come stanno le cose, io credo che intenda invece riformarlo. Miss Austen, essendo, come lei dice, priva di sentimento, priva di poesia, forse è dotata di buon senso, aderisce al reale più che al vero, ma non può essere grande. Mi sottometto alla sua ira, che ormai ho eccitato, non ho forse messo in discussione la perfezione della sua preferita. La tempesta si scatenerà sul mio capo, nondimeno, appena potrò farlo, non so quando ciò mi sarà possibile, visto che non ho accesso a una libreria circolante. Scorrerò diligentemente tutti i lavori di Miss Austen, come lei mi consiglia. Mi deve scusare se non mi riesce sempre di pensare a modo suo. E ancora, mi creda, suo grato Carrer Bell. Ho esitato alquanto prima di inserire il seguente brano ricavato da una lettera a Mr. Williams, ma è straordinariamente caratteristico e la critica che contiene è, data la circostanza, così indicativa, così interessante che la si accetti o no, che mi sono decisa per il sì, anche se così sposto l'ordine cronologico delle lettere, in modo da completare questa parte di una corrispondenza che è preziosa per mettere in evidenza il lato intellettuale del carattere di Charlotte Bronte. A Mr. W. S. Williams, 26 aprile 1848. Caro signore, ho appena finito di leggere Rosa, Bianca e Violetta. E farò del mio meglio per dirle quello che ne penso. Non so se possa considerarsi o no come un progresso su Runthorpe, perché Runthorpe mi è piaciuto moltissimo, ma in ogni caso contiene molto di buono. Vi noto la medesima forza di ingegno, ma più completamente sviluppata. Vi si legge il carattere dell'autore in ogni pagina e ciò rende il libro interessante, di gran lunga più interessante di quanto un qualsiasi sviluppo dell'intreccio possa fare. Ma ciò che attrae sono più i commenti personali dell'autore che non le parole che mette in bocca ai suoi personaggi. A mio parere, G.H. Lewis è, secondo quanto percepisco, decisamente il più originale personaggio del libro. I brani didattici mi sembrano i migliori, di gran lunga i migliori, di tutto il lavoro. Sono molto sottili, molto profondi e si rivolgono al lettore e alla lettrice assai chiaramente. È un pensatore giusto, è un osservatore sagace. Le sue teorie sono per lo più sagge e non dubito che le metta in pratica, ma perché ci si sente spesso provocati mentre si leggono le sue pagine? Come mai fa sì che chi lo ascolta si senta in dovere di combattere le dottrine che egli sostiene invece di accettarle tranquillamente? Si riconoscono gemme di pura verità? Perché si continua a scrutarle indefessamente per scoprire una qualche falla? Tento di indovinare. Con tutte le sue doti intellettuali, con tutta la sua probità, in Mr. Lewis ci deve essere un difetto di modi, che rivelano un tocco di dogmatismo, una vena di esagerata fiducia in sé. A questo si pensa mentre si legge il libro, ma dopo averlo chiuso e messo via, rimanendo seduti a riflettere e a inquadrare le impressioni che se ne sono ricavate, scopriamo che il sentimento predominante in noi è di piacere, per aver stabilito un contatto più intimo, con una bella intelligenza e un cuore onesto, dotato l'una di grande abilità, l'altro di virili principi. Spero che egli non tardi molto a scrivere un altro libro. Nelle sue pagine, però, le emozioni sono da un certo punto di vista troppo uniformemente impetuose. Non avrebbe uno stile più pacato, conseguito un effetto più convincente? Di tanto in tanto Mr. Lewis prende in mano una penna francese, nel che differisce da Mr. Thackeray, che sempre fa uso di un'asticella inglese. Tuttavia la penna francese non fa deviare troppo Mr. Lewis. Egli ne fa uso con muscoli inglesi. Ogni onore a lui per il complessivo, eccellente risultato del suo libro. Non dà un quadro attraente della società letteraria londinese, specialmente del suo gruppo femminile, ma tutte le congreghe, siano esse letterarie, scientifiche, politiche o religiose, devono avere, a quanto mi sembra, una generale tendenza a trasformare la verità in affettazione. Quando la gente fa parte di una cricca, suppongo che debba scrivere, parlare, pensare e vivere in una data maniera, snervante e limitante necessità. Confido che la stampa e il pubblico siano disposti ad accogliere il libro come merita, cioè con grande cordialità, di gran lunga superiore, di quanto sia dovuto a un parto di Balwer o di Disraeli.